Buonasera a tutte e tutti, bentrovate, sono le 18:23, sta iniziando super velocissimamente Atti e Misfatti, gli appuntamenti, le iniziative, le idee, gli atti, i fatti e misfatti di femministe e lesbiche in Italia, a volte anche nel mondo. Sto parlando così in velocità perché dobbiamo metterci in collegamento, in connessione, diciamo, come si dice oggi, con una compagna di Atlantide, quindi sentiamoci ancora un po' questa canzone. Intanto bentrovate a tutte, 06 49 17 50, mfla@andorossa.info per entrare in contatto con noi. Wash him out, dry him out, push him out, fly him out, cancel him and let him go. Yes, sister, I'm gonna wash that man right out of my hair. I'm gonna wash that man right out of my hair. I'm gonna wash that man right out of my hair and send him on his way. If the man don't understand you, if you fly on separate feet, waste no time, make a change. Ride that man right off your range. Rub him out of the roll call and drum him out of your dreams. If you laugh at different comics, if you root for different teams, waste no time, weep no more. Show him what the door is for. Rub him out of the roll call and drum him out of your dreams. Oh no, oh no. E quindi rieccoci in diretta. Bologna, Atlantide, insomma, che succede? Ci siamo già sentite la settimana scorsa al volo, ma sappiamo che questa settimana c'è un'iniziativa, quindi raccontaci un po' come vanno le cose. Allora, innanzitutto buonasera e grazie per seguire insieme a noi questa Via Crucis, insomma, per amplificare la nostra voce anche a livello nazionale. Allora, un po' anche per chi la scorsa volta non era in onda, e anche partendo dal presupposto che ci sia, e sicuramente c'è chi non ha idea di che cosa sia Atlantide. Atlantide è uno spazio sociale qua a Bologna, occupato dal 1998, all'interno dei quali sostanzialmente adesso, ma da lungo tempo, vivono tre gruppi che hanno una loro vita autonoma e sono tre soggetti politici autonomi, che sono appunto un gruppo punk che si occupa di musica indipendente, un gruppo che in origine era antagonismo gay, adesso insomma è un gruppo queer che si occupa appunto di tematiche queer molto genericamente. E poi ci siamo noi, che siamo un gruppo femminista e lesbico, che si chiama Quelle che non ci sanno, e comunque è stata la sede anche del Clitoristrix per lungo tempo. Non è la prima volta, ma questa volta diciamo che ha un sapore amaramente più concreto, non che le altre volte non ci fossimo spaventate sul serio, ci siamo spaventate anche le altre volte, però adesso abbiamo insomma più timore del solito, perché il 1 aprile ci è stata recapitata una lettera nella quale ci si intima di lasciare gli spazi, di lasciare appunto quella che è la nostra sede da 16 anni, perché illegittimamente all'interno, e perché vorrebbe essere assegnata a dei gruppi che invece legittimamente ne hanno vinto l'assegnazione attraverso quel meccanismo di bandi e di concorsi e di competizione tra associazioni, per cui pare che due associazioni, insomma, che hanno vinto questo bando, che non hanno niente a che fare con i temi che hanno abitato quello spazio sino ad oggi, siano più meritevoli di noi. Vabbè, a me sembra molto un gioco ipocrita delle amministrazioni per poter mandare via magari senza fare tanto scalpore. Allora facciamo la guerra tra le associazioni o comunque tra realtà attive nel territorio e noi ce ne laviamo le mani e non prendere mai posizione. Ne siamo convinti anche noi che sia esclusivamente un espediente per liberarsi comunque di soggettività che comodissime non sono, perché sollevano continuativamente delle questioni, insomma, che non possono essere eluse dalle amministrazioni né locali né nazionali. Per cui infatti il nostro discorso non è quello di entrare in conflitto con le singole associazioni, nel senso che riteniamo che qualsiasi associazione o gruppo abbia il diritto di avere una sede laddove fa un lavoro politico, sociale, insomma, estendibile, che serva a qualcuno. C'è da dire che queste associazioni erano tutte al corrente quando hanno concorso a questo bando, per il fatto che noi fossimo all'interno e non fossimo intenzionate a lasciare lo spazio, per cui un margine, insomma, di responsabilità c'è. Ma il discorso non è questo, il discorso è che noi vogliamo rimanere nella nostra sede e che infatti noi diciamo che probabilmente anche queste associazioni hanno diritto di avere un luogo che però non può essere quello che noi già abbiamo da tanti anni. Per cui sollecitiamo il comune o il quartiere, perché la nostra sede di competenza è il quartiere, però ovviamente l'amministrazione della città non può tirarsene fuori, a trovare una sede per queste associazioni che non metta minimamente però in discussione appunto la nostra esistenza, è anche proprio più lineare, più logico, cioè se un'altra sede vuole essere data, venga data loro e noi rimaniamo all'interno. In particolare come donne, come lesbiche, siamo molto determinate a voler ribadire questa cosa, perché noi viviamo anche, cioè, l'estromissione dal mondo intero, dagli spazi pubblici, dai luoghi, e non siamo assolutamente poco disposte a cedere su questo punto, anche perché per noi gli spazi sociali per le donne sono un antidoto, come dicevo forse anche la scorsa volta, all'isolamento delle donne, che è l'humus sul quale si innesta qualsiasi forma di violenza, e crediamo che tra l'altro i luoghi delle donne ci siamo, perché sento dei rumori. Ti ascoltiamo a sorte. E dicevo appunto che gli spazi sociali per le donne, dove si crea socialità e politica tra donne, sono anche i luoghi nei quali ci si creano gli strumenti e ci si attrezza poi per muoversi in questo mondo appunto che non è proprio fatto a nostra dimensione. Verissimo. Per cui riteniamo incongruente un'amministrazione locale che si dice schierata, che fa la capofila in un sacco di progetti per i diritti delle donne, per la libertà delle donne, contro la violenza alle donne, e poi in concomitanza agisce appunto sgomberi di spazi dove le donne vivono da anni e anni, fanno lavoro politico insieme con posizioni non assolutamente equivoche rispetto al discorso della violenza sulle donne. Quindi siamo fortemente critiche. Lunedì 7, quindi ieri, siamo state in consiglio comunale a riportare al mittente la lettera con la quale ci si intimava di andare via, e venerdì invece facciamo un presidio pubblico, una presenza pubblica, insomma, alle 18 in piazza Renzo a Bologna. E contiamo, insomma, che in tanti ci attestino la loro vicinanza, anche perché più sentiamo che questo è uno spazio condiviso e di cui molte persone credono irrinunciabile, a maggior ragione ha senso difenderlo. Insomma, è uno spazio sostanzialmente che in città è molto riconosciuto ed è molto singolare, oltre al fatto appunto che non ci sono altre occupazioni femministe ad oggi in città, e non siamo, insomma, così disposte e disinvolte nel cedere qualcosa che abbiamo conquistato in tantissimo tempo, anche perché appunto noi facciamo una politica sostanzialmente separatista, perché le nostre referenti sono sempre e comunque le donne e le lesbiche, questi spazi di agibilità ce li siamo conquistati nel tempo con le unghie e con i denti, esposte ad attacchi di tutti i tipi, e non vogliamo ripartire da zero completamente. Mi sembra giusto. Noi ti ringraziamo moltissimo di questa intervista. Io ringrazio voi. E ci aggiorniamo comunque, magari martedì ci risentiamo, ci fate sapere com'è andato l'iniziativa in piazza, lo ricordiamo. Non so se avete avuto modo di vedere anche il nostro comunicato come compagne. Sì, credo di ce l'abbiamo qui davanti, quindi semmai ne diamo lettura di stralci. Sì. Quella ce l'avete. Sì. Okay. Per cui insomma lì un po' cerchiamo di sintetizzare i motivi per i quali non vogliamo andare via. Noi vi auguriamo una buona lotta innanzitutto, che mi sembra questo il momento più adatto. Buon presidio venerdì, lo ricordiamo, piazza Re Enzo alle ore 18, stiamo parlando di Bologna, Atlantide non si sgombera, e ci sentiamo presto. Un abbraccio a tutte, resistete. Grazie per il sostegno, grazie per l'amplificazione della nostra voce, ciao, grazie ancora. A presto, ciao.